Wang Lung non sapeva cosa fare dopo quella risposta. Veramente il mediatore non c'era più. Era impossibile parlare di compravendita di terra direttamente con l'anziano signore senza un mediatore. Ma i gioielli gli posavano sul petto, caldi come fuoco, e voleva sbarazzarsene, ma soprattutto voleva la terra. Aveva abbastanza semi da poter piantare altrettanto terreno di quello che possedeva e voleva il buon terreno della casa dei Huang. «Sono venuto per una questione di soldi», disse esitante. L'anziano signore fece subito per richiudere i battenti. «Non ci sono soldi in questa casa», disse, e non aveva mai parlato a voce tanto alta. «Quel ladro è bandito di un agente, e maledette siano sua madre e la madre di sua madre. Ha preso tutto quello che avevo. Non posso ripagare nessun debito». «No, no», si affrettò a ribadire Wang Lung. «Sono venuto per pagare, non per riscuotere debiti». A quel punto risuonò un grido stridulo, una voce che Wang Lung non aveva mai sentito, e una donna sporse improvvisamente la faccia dal portone. «Ecco una cosa che non sentivo da tempo!» disse pungente, e Wang Lung vide un bel viso florido molto truccato dall'aria bisbetica che lo guardava. «Entra!» disse risolutamente. E aprì il portone quel tanto che bastava a farlo entrare, e poi lo richiuse con fermezza alle sue spalle mentre lui se ne stava sbalordito in cortile. L'anziano signore rimase lì a fissarlo, tossicchiante, avvolto in una lurida veste di raso grigio da cui pendeva un bordo di pelliccia inzaccherato. Un tempo era stato un indumento fine, come poteva vedere chiunque, perché il raso era ancora liscio e pesante, malgrado le chiazze che lo ricoprivano, ed era stropicciato come se fosse stato usato al posto di una camicia da notte. Wang Lung si voltò a guardare l'anziano signore con curiosità, ma anche con un certo timore, poiché per tutta la vita aveva avuto una certa paura della gente nella grande casa, e gli sembrava impossibile che l'anziano signore di cui aveva sentito parlare così tanto fosse quel vecchio, non più terribile del vecchio che era suo padre, e anche meno perché suo padre era un vecchio pulito e sorridente. E l'anziano signore, un tempo grasso, ora era smilzo e la pelle gli pendeva addosso, ed era sporco e non rasato, e la sua mano era gialla e tremava quando la passava sul mento e tirava le sue vecchie labbra molli. La donna era piuttosto pulita, aveva un viso duro, affilato, attraente, una sorta di bellezza di falco, con il naso dall'attaccatura alta e gli occhi neri, vivi e brillanti. La pelle pallida, troppo tirata sulle ossa, mentre le guance e le labbra erano rosse e sode. I capelli neri erano come uno specchio, tanto erano lisci e lucenti, e tuttavia dal modo di parlare si capiva che non apparteneva alla famiglia del padrone, ma che era una schiava, dalla voce stridula e la lingua pungente. E oltre alla donna e all'anziano signore non c'era nessun altro in quella corte, dove in passato uomini e donne e bambini andavano di corsa avanti e indietro prendendosi cura della grande casa. «Allora, parliamo di soldi», disse bruscamente la donna. Ma Wan Lung esitava, non sapeva parlare bene davanti all'anziano signore, e la donna se ne accorse immediatamente, così come si accorgeva di ogni cosa più in fretta di quanto si potesse esprimere a parole, e con voce pungente disse al vecchio: «Vattene adesso!» E senza una parola, l'anziano signore si allontanò, tossicchiando con passo strascicato, le vecchie scarpe di velluto sbatacchianti sui talloni. Quanto a Wang Lung, rimasto solo con la donna, non sapeva cosa dire o fare, lo sorprendeva il grande silenzio ovunque. Diede un'occhiata nella corte successiva, e anche lì non c'era nessuno, e sparsi per la corte vide mucchi di rifiuti e sporcizie e paglia e rametti di bambù e aghi secchi di pino e steli morti di fiori, come se da molto tempo nessuno avesse più preso in mano una scopa per dare una ripulita. «E allora, testa di legno!» disse la donna molto aspramente, e Wang Lung sussultò al suono della sua voce, tanto era lacerante. «Di quale affare si tratta? Se hai dei soldi, fammeli vedere!» «No!» disse cauto Wang Lung, non ho detto di avere soldi, ho un affare. Affare vuol dire soldi, ribatté la donna, soldi che escono o soldi che entrano, e soldi che possono uscire da questa casa, non ce ne sono. Ma io non posso parlare con una donna, obiettò con gentilezza Wang Lung. Non sapeva come comportarsi in quella situazione e continuava a guardarsi attorno. Beh, e perché no? Replicò con rabbia la donna. Poi all'improvviso gli gridò: «Pazzo! Non l'hai sentito che qui non c'è nessuno? Wang Lung la fissò debolmente, incredulo, e la donna gli gridò nuovamente: Solo io e l'anziano signore, non c'è nessun altro! E dove sono gli altri? Chiese Wang Lung, troppo sbigottito per riconoscere un senso nelle sue parole. Beh, l'anziana padrona è morta, rispose la donna. Non hai sentito dire in città di come i banditi sono entrati in casa e hanno portato via tutto quello che volevano, schiavi e beni? E hanno appeso l'anziano signore per i pollici, l'hanno picchiato e hanno legato l'anziana padrona a una sedia e l'hanno imbavagliata, poi sono corsi via tutti. Io però sono rimasta. Mi sono nascosta in una giara mezza piena d'acqua, sotto un coperchio di legno, e quando sono uscita se n'erano andati. E l'anziana padrona era morta sulla sedia, non perché l'avevano toccata, ma per la paura. Il suo corpo era una canna marcia, dopo tutto l'oppio che aveva fumato, e non ha retto alla paura. E i servi? E gli schiavi? Chiese Wang Lung a bocca aperta. E il custode? Ah, quelli, rispose noncurante la donna. Se n'erano andati da tempo. Tutti quelli che avevano i piedi per fuggire, perché a metà dell'inverno non c'erano né cibo né soldi, anzi, la sua voce divenne un sussurro, molti dei servi sono finiti tra i banditi. Ho visto io stessa quel cane di un custode, faceva strada agli altri, anche se ha girato la testa dall'altra parte quando si è trovato davanti l'anziano signore, però io ho riconosciuto i tre lunghi peli del suo neo e c'erano anche degli altri. Chi poteva sapere, infatti, all'infuori di quelli della grande casa, dove fossero nascosti i gioielli e i posti segreti dove erano conservati i tesori da non vendere. Non mi stupirei se fosse coinvolto anche il vecchio agente, anche se sarebbe degradante per lui comparire pubblicamente nella faccenda, perché è una specie di lontano parente della famiglia. La donna tacque e il silenzio delle corti era pesante come può essere il silenzio dopo che la vita se n'è andata. Poi disse: Ma non è successo tutto all'improvviso. La fine di questa casa è iniziata già durante la vita dell'anziano signore e di suo padre. Nell'ultima generazione i signori hanno smesso di vedere la terra e hanno preso i soldi dagli agenti e li hanno spesi senza badarci, come fossero acqua. E la forza della campagna ha abbandonato le generazioni e a poco se n'è andata anche la campagna. E dove sono i giovani signori? Chiese Wang Lung, continuando a guardarsi attorno, incapace di credere a quelle cose. Di qua, di là, disse con indifferenza la donna. È una fortuna che le due ragazze siano state sposate prima di tutto questo. Il figlio maggiore, quando ha sentito cos'era successo a suo padre e sua madre, ha mandato un messaggero a prendere suo padre, l'anziano signore, ma ho persuaso il vecchio a non andarsene. Gli ho detto: Chi rimarrà allora nelle corti? E non è decoroso per me che sono solo una donna. Nel pronunciare queste parole, arricciò con espressione virtuosa le labbra e abbassò gli occhi audaci, e dopo una breve pausa disse: E poi sono stata la schiava fedele del mio signore per molti anni, e non ho un'altra casa. Allora Wang Lung la guardò da vicino e distolse rapidamente gli occhi. Cominciò a capire la situazione. Una donna che si aggrappava a un uomo vecchio e morente per ciò che poteva cavarne, disse con sdegno: Poiché sei solo una schiava, come posso fare affari con te? Al che lei disse con veemenza: Ah, farà qualsiasi cosa gli dica. Huang Lung rifletté su quella risposta. Beh, c'erano le terre, altri le avrebbero comprate tramite la donna se non l'avesse fatto lui. Quanta campagna è rimasta? Chiese riluttante. E lei comprese subito il suo intento. Se sei venuto a comprare del terreno, disse rapidamente, ce n'è. Ha un centinaio di acri a ovest e 200 a sud e li venderà. Non è un appezzamento unico, ma le particelle sono grandi, si possono vendere fino all'ultimo acro. Parlò così prontamente che Wang Lung capì che sapeva esattamente cosa fosse rimasto al vecchio, fino all'ultimo pezzetto di terra. Eppure era scettico e non aveva voglia di far affari con lei. Mi sembra impossibile che il vecchio signore possa vendere la terra della sua famiglia senza il consenso dei figli, obiettò Wang Lung. Ma la donna rispose alle sue parole con impazienza. Se per questo i figli gli hanno detto di vendere quando può, nessuno dei figli vuole vivere su quei terreni, e in questi tempi di carestia Il paese è devastato dai banditi e tutti hanno detto: in un posto così non possiamo vivere, vendiamo e dividiamo i soldi. Ma in quale mano metterei i soldi? Chiese Wang Lung ancora incredulo. In quella dell'anziano signore. In quale se no? Rispose tranquillamente la donna. Ma Wang Lung sapeva che la mano dell'anziano signore si apriva in quella di lei, perciò non voleva più parlare con la donna, ma si girò dicendo: un altro giorno, un altro giorno. E andò verso il portone, seguito da lei, che quando già era in strada gli gridò: a quest'ora domani, a quest'ora, o oggi pomeriggio, tutte le ore sono uguali. Wang Lung proseguì lungo la strada senza rispondere, molto confuso e sentendo il bisogno di pensare a quello che aveva sentito. Entrò nella piccola casa da tè, ordinò un tè, e quando il ragazzo glielo ebbe prontamente portato e con gesto impudente ebbe afferrato e gettato in aria il centesimo ricevuto, Wang Lung si immerse in riflessioni. E quanto più rifletteva, tanto più terribile gli pareva che la grande e ricca famiglia, che per tutta la sua vita e quella di suo padre e di suo nonno aveva rappresentato in città un potere e una gloria, fosse ora caduta e dispersa. È perché hanno abbandonato la campagna, pensò con rincrescimento. E pensò ai due figli maschi che stavano crescendo come giovani germogli di bambù in primavera e decise che quel giorno stesso avrebbe vietato loro di giocare sotto il sole e li avrebbe mandati a lavorare nei campi per fare in modo che nelle ossa e nel sangue gli si imprimesse subito la sensazione di avere il suolo sotto i piedi e la zappa stretta nelle mani. Ma per tutto quel tempo i gioielli erano rimasti caldi e pesanti contro il suo corpo e Wang Lung aveva costantemente paura. Gli sembrava che la loro brillantezza potesse risplendere attraverso i suoi stracci e qualcuno avrebbe gridato: ecco qui un povero che porta il tesoro di un imperatore. E non avrebbe potuto riposare fin quando i gioielli non si fossero mutati in terre. Attese perciò che il negoziante avesse un momento di quiete e andò da lui e disse: vieni a bere una tazza a mie spese, raccontami le notizie della città, perché sono stato via tutto l'inverno. Il negoziante, un ometto dalla faccia di faina, con l'occhio sinistro storto e strabico, era sempre pronto per quel genere di conversazione, soprattutto se beveva il suo tè a spese altrui, e si sedette prontamente al tavolo di Wang Lung. I suoi vestiti erano tutti neri e pesanti, con strisce di unto sul davanti della giacca e dei pantaloni, perché oltre al tè vendeva anche cibo che cucinava lui stesso e amava ripetere: c'è un proverbio che dice: un bravo cuoco non ha mai la giacca pulita. E quindi si considerava giustamente e necessariamente sporco. Si sedette e cominciò subito: bene, oltre alla gente che moriva di fame, che non è una notizia, la notizia più grande è il saccheggio della casa dei Huang. Era proprio quello che Wang Lung sperava di sentire, e l'uomo si mise a raccontare con gusto, descrivendo come i pochi schiavi rimasti avessero gridato e fossero stati portati via, e come le concubine rimaste fossero state violentate e scacciate, e alcune fossero state persino portate via, così che nessuno adesso viveva più in quella casa. Nessuno, terminò l'uomo, tranne l'anziano signore, che adesso è completamente in balia di una schiava chiamata Cucù, che era stata nella camera dell'anziano signore per molti anni, grazie alla sua intelligenza, mentre altri andavano e venivano. E quindi questa donna ha il comando? Chiese Wang Lung ascoltando con molta attenzione. Oh, in questo momento può fare qualsiasi cosa, rispose l'uomo. Quindi chiude la mano su qualsiasi cosa si possa afferrare e inghiotte tutto quello che si può inghiottire. Certamente un giorno, quando i giovani signori avranno sistemato i loro affari e altrove, torneranno e lei non potrà prenderli in giro spacciandosi per la serva fedele che deve essere ricompensata e se ne dovrà andare via, ma si è già guadagnata da vivere, anche se dovesse vivere 100 anni. E le terre? Chiese alla fine Wang Lung, tremando dal desiderio. Le terre? Disse l'uomo con espressione assente. Per quel negoziante le terre non significavano proprio nulla. Sono in vendita? Chiese con impazienza Wang Lung. Ah, le terre! Rispose indifferente l'uomo. E vedendo entrare un cliente, si alzò e allontanandosi rispose: ho sentito che sono in vendita, tranne l'appezzamento dove la famiglia è sepolta da 6 generazioni. E proseguì per la sua strada. Allora anche Wang Lung si alzò, perché aveva sentito quel che era venuto a sentire, e uscì. e andò nuovamente davanti al grande portone. E la donna andò ad aprirgli e lui rimase lì, senza entrare, e le disse: Dimmi innanzitutto, l'anziano signore metterà il suo sigillo all'atto di vendita? E la donna prontamente rispose, e i suoi occhi erano fissi su quelli di lui. Lo metterà sulla mia vita. Allora Wang Lung le disse direttamente: Venderai la terra per oro o per argento o per gioielli? E gli occhi di lei luccicavano quando parlò e disse: Per gioielli. 17. Adesso Wang Lung aveva più terra di quanto un uomo con un bue possa arare e raccogliere, e più raccolto di quanto un uomo può mettere in casa. E quindi costruì un'altra stanza e comprò un asino e disse al suo vicino Ching: Vendimi quel pezzetto di terra che hai e lascia la tua casa solitaria e vieni da me e aiutami con la mia terra. E Ching fece così e fu felice di farlo. I cieli piovero nella stagione giusta e le pianticelle di riso crebbero. E quando il frumento fu tagliato e raccolto in pesanti covoni, i due uomini trasferirono le piantine di riso nei campi allagati. Quell'anno Wang Lung piantò più riso di quanto avesse mai piantato, perché le piogge furono abbondanti e le terre che un tempo erano state asciutte quell'anno furono adatte al riso. Poi, quando arrivarono le messi, lui e Ching da soli non riuscirono a raccoglierle, tanto erano abbondanti, e Wang Lung assoldò come braccianti altri due uomini che vivevano nel villaggio e le raccolsero loro. Mentre lavorava sulla terra che aveva comprato dalla casa dei Huang, pensò anche ai giovani signori oziosi della grande famiglia caduta e ogni mattina ordinò severamente ai suoi figli di andare nei campi con lui e li mise a fare qualcosa di adatto alle loro manine, a guidare il bue e l'asino, e anche se non riuscivano a fare molto, dovevano almeno conoscere la vampa del sole sui loro corpi e la stanchezza nell'andare avanti e indietro lungo i solchi. Ma non permise più a Olandi lavorare nei campi perché non era più un uomo povero, ma uno che poteva affidare ad altri il suo lavoro se lo voleva, vedendo che la terra non aveva mai prodotto tali raccolti come quell'anno. Fu costretto a costruire e aggiungere ancora un'altra stanza in cui stipare il raccolto, o non avrebbe avuto spazio per camminare all'interno della casa. E comprò 3 maiali e dei polli che si nutrivano coi chicchi di grano rimasti a terra dopo aver raccolto le messi. Olan lavorava in casa, faceva abiti nuovi e scarpe nuove per ciascuno e coperte di stoffa a fiori imbottita di nuovo e caldo cotone per ogni letto. E quando tutto fu finito, avevano una ricchezza di vestiti e coperte come non mai. Poi si stese sul suo letto e partorì di nuovo, anche se neppure questa volta volle con sé qualcuno, anche se avrebbe potuto assoldare chi voleva, scelse di essere sola. Questa volta il travaglio fu lungo e faticoso, e quando Wang Lung arrivò a casa la sera trovò suo padre sulla porta, che disse ridendo: Stavolta un uovo con due tuorli. E quando Wang Lung entrò nella stanza interna, Olan era a letto con i due neonati, un maschio e una femmina, identici come due chicchi di grano, e scoppiò in una forte risata, vedendo quel che la donna aveva fatto, e poi pensò a qualcosa di allegro da dirle: Ecco perché portavi due gioielli sul petto. E rise ancora di quella battuta, e vedendolo così allegro, Olan sorrise alla sua lenta, dolorosa maniera. In quel periodo Wang Lung non aveva quindi nessun genere di cruccio, se non per il fatto che la sua bambina maggiore non parlava né faceva quelle cose che erano giuste per la sua età, ma si apriva solo in quel suo sorriso infantile, quando coglieva lo sguardo del padre. O se è stato il suo primo disperato anno di vita, o la fame sofferta o qualcos'altro, i mesi passavano uno dopo l'altro e Wang Lung aspettava di sentirla pronunciare le prime parole, o anche solo il nomignolo con cui gli si rivolgevano i bambini, Dada. Ma non venne nessun suono, c'era solo il dolce e vuoto sorriso. E guardandola, Wang Lung diceva con un sospiro: Ah, scioccherella, mia povera scioccherella. E in cuor suo gemeva. Se avessi venduto questa creaturina e avessero scoperto che è così, l'avrebbero uccisa. E come per riparare a un torto, le prestava grande attenzione e a volte se la portava nei campi e lei lo seguiva silenziosamente, sorridendo quando lui le parlava e le prestava attenzione. Da quelle parti, dove Wang Lung aveva passato tutta la sua vita e suo padre e il padre di suo padre avevano vissuto nella campagna, C'erano carestie ogni 5 anni circa, o se gli dei erano clementi ogni 7 o 8, oppure ogni 10 anni. Questo succedeva perché i cieli piovevano troppo o per nulla, o perché il fiume a nord, a causa delle piogge o delle nevi invernali sulle montagne lontane, si riversava sui campi rompendo gli argini che per secoli gli uomini avevano costruito con lo scopo di contenerlo. Regolarmente gli uomini fuggivano dalla campagna e vi tornavano, ma Wang Lung si dedicò ora a costruire le proprie fortune così solidamente che durante gli anni cattivi che sarebbero venuti non avrebbe mai più dovuto lasciare le sue terre, ma avrebbe vissuto dei frutti degli anni buoni, sostenendosi così fino al successivo. Si impegnò. Gli dèi lo aiutarono e per 7 anni ci furono raccolti e ogni anno Wang Lung e i suoi uomini trebbiarono molto più di quanto si potesse mangiare. Assoldò ogni anno sempre più braccianti per i suoi campi finché ne ebbe 6 e costruì una casa nuova dietro la vecchia, una grande stanza dietro una corte e 2 stanze piccole su ciascun lato della corte, accanto alla stanza grande. Coprì di tegole il tetto della casa, ma le pareti erano fatte ancora della terra duramente compressa dei campi, anche se le fece intonacare a calce ed erano bianche e pulite. Lui e la sua famiglia si trasferirono in quelle stanze e i lavoranti, capeggiati da Ching, vissero nella vecchia casa sul davanti. Wang Lung aveva ormai messo abbondantemente alla prova Ching e l'aveva trovato onesto e fedele e ne fece il suo soprintendente sugli uomini e sulla terra e lo pagava bene, 2 pezzi d'argento al mese oltre al cibo. Ma nonostante lo invitasse a mangiare e a mangiare bene, Ching continuava a non mettere carne sulle ossa e rimaneva sempre un ometto magro e secco dall'aspetto austero. Eppure lavorava volentieri, faticando in silenzio dall'alba fino al calare del buio, parlando con la sua voce flebile se c'era qualcosa da dire. Ma era contento, soprattutto se non doveva dire niente e poteva restare in silenzio. E ora, dopo ora, sollevava e riabbassava la zappa e all'alba e al tramonto portava nei campi secchi d'acqua o il letame da versare sui filari di verdure. Eppure Wang Lung sapeva che se qualcuno dei lavoranti tutti i giorni dormiva troppo a lungo sotto le palme da dattero o prendeva più della sua parte di tofu dal piatto comune o se qualcuno faceva venire di nascosto la moglie o un figlio al tempo del raccolto e intascava manciate del grano che veniva battuto sotto i correggiati, alla fine dell'anno, quando il padrone e il soprintendente festeggiavano insieme dopo il raccolto, Ching gli avrebbe sussurrato: quello là e quello là, non chiedegli più di venire l'anno prossimo. E sembrava che la manciata di fagioli e quella di semi che i due uomini si erano scambiati li avessero resi fratelli, solo che Wang Lung, più giovane, aveva preso il posto del più anziano e Ching non dimenticò mai del tutto che era un dipendente e viveva in una casa che apparteneva a un altro. Alla fine del 5º anno, Wang Lung lavorava ormai poco nei campi perché le sue terre erano aumentate tanto che doveva passare tutto il tempo a gestire gli affari e la vendita dei suoi prodotti e a dirigere i suoi lavoranti. Era molto ostacolato dal non conoscere i libri e il significato dei caratteri scritti sulla carta con l'inchiostro e un pennello fatto con peli di cammello. Ed era anche motivo di vergogna per lui quando si trovava in un negozio in cui si acquistava e rivendeva grano e si scriveva un contratto per una certa quantità di frumento o di riso, dover dire umilmente agli altezzosi commercianti in città: «Signore, lo leggerebbe per me, sono troppo stupido». Ed era una vergogna per lui che quando doveva apporre il suo nome al contratto, un qualche gretto commesso sollevasse sprezzante le sopracciglia e dopo aver strofinato la punta del pennello sul blocco di inchiostro bagnato, tracciasse rapidamente i caratteri del nome di Wang Lung. E una vergogna ancor più grande che quando l'uomo esclamava scherzando: «È il carattere Lung che sta per drago o quello che significa sordo?» Wang Lung era costretto a rispondere umilmente: «Fai come vuoi, perché sono troppo ignorante per conoscere il mio nome». Fu in una giornata così, al tempo del raccolto, che dopo aver sentito lo scoppio di risa dei commessi nel negozio di granaglie, i quali all'ora di pranzo non avevano niente da fare e ascoltavano ogni cosa che succedeva, tutti i ragazzi poco più grandi dei suoi figli, che Wang Lung tornò a casa pieno di rabbia verso le sue terre, dicendo fra sé: «Non uno solo di quegli idioti di città ha un pezzetto di terreno, eppure tutti pensano di poter starnazzare e ridere di me». perché non sono capace di riconoscere il significato dei tratti di pennello sulla carta. E quando l'indignazione fu svanita, disse nel cuore: è vero che è una vergogna per me non saper leggere e scrivere. Toglierò il mio figlio maggiore dai campi e lo manderò in una scuola in città e imparerà. E quando andrò ai mercati del grano, lui leggerà e scriverà per me, cosicché la smetteranno con quelle risate odiose contro di me, io che sono un proprietario di terreni. Gli parve una buona idea e quel giorno stesso chiamò il figlio maggiore, un ragazzo alto e dritto che aveva ormai 12 anni, somigliante alla madre nel viso dalle ossa larghe e nelle mani e nei piedi grandi, ma che aveva l'occhio veloce del padre. E quando gli fu davanti, Wang Lung disse: da oggi lascerai i campi, perché mi serve una persona istruita in famiglia per leggere i contratti e scrivere il mio nome, così che in città non proverò più vergogna. Il ragazzo si fece paonazzo e i suoi occhi brillarono. Padre, disse, è quello che durante gli ultimi 2 anni ho desiderato di poter fare, ma non avevo il coraggio di chiederlo. Quando sentì tutto questo, il minore scoppiò a piangere e a lamentarsi, come faceva spesso perché fin da quando aveva iniziato a parlare era stato un bambino rumoroso e chiacchierone, sempre pronto a gridare di aver ricevuto meno degli altri. E adesso si rivolse frignando al padre: allora non lavoro nei campi nemmeno io, non è giusto che mio fratello se ne stia tranquillo su una sedia a imparare qualcosa e io debba lavorare come un mulo, io che sono tuo figlio tanto quanto lui. Wang Lung non sopportava tutto quel rumore e in genere gli concedeva qualsiasi cosa se lui la reclamava a voce abbastanza alta, e allora disse: e va bene, andate tutti e due, e se il cielo nella sua malignità si prenderà uno di voi, ci sarà l'altro che con il suo sapere farà per me gli affari. Poi mandò la madre dei suoi figli in città a comprare della stoffa per fare una lunga veste a ciascuno. E lui andò in un negozio di carta e inchiostro e comprò carta e pennelli e 2 blocchetti per l'inchiostro, anche se non capiva niente di quelle cose, ma vergognandosi di dirlo, sospettava di tutto quello che l'uomo gli mostrava. Alla fine tutto fu pronto e organizzato per mandare i ragazzi in una piccola scuola vicino alle porte della città, tenuta da un uomo che in passato aveva tentato senza successo di superare gli esami imperiali per diventare funzionario. Nella stanza centrale della sua casa aveva perciò messo panche e tavoli e per una piccola somma, riscossa ogni giorno di festa dell'anno, insegnava i classici ai ragazzi, battendoli con il suo largo ventaglio chiuso se appena erano pigri o non erano capaci di ripetere le pagine sulle quali erano chini, dall'alba al tramonto. Solo nelle calde giornate di primavera ed estate gli allievi avevano un po' di tregua. Perché allora il vecchio, dopo il pranzo del mezzogiorno, reclinava la testa sul petto e dormiva, e il rumore del suo sonnellino riempiva la stanzetta buia. Allora i ragazzini sussurravano e giocavano e facevano disegni irrispettosi che si mostravano a vicenda e ridacchiavano se vedevano una mosca ronzare intorno alla mascella spalancata e inerte del vecchio e scommettevano se la mosca sarebbe entrata o meno nella caverna della sua bocca. Ma quando il vecchio maestro apriva all'improvviso gli occhi e non si poteva prevedere quando li avrebbe aperti così in fretta e di soppiatto come se non avesse dormito, li vedeva prima che loro potessero rendersene conto e colpiva tutti intorno con il ventaglio, picchiando questo o quel cranio. E sentendo i colpi del grosso ventaglio e le grida dei bambini, i vicini dicevano: dopotutto il vecchio è un degno maestro. E perciò Wang Lung scelse quella scuola per mandarvi a studiare i suoi figli.